12. La cospirazione. Così come aveva pronosticato il candidato, i socialisti, alleati col resto dei partiti della sinistra, vinsero le elezioni presidenziali. Il giorno delle votazioni trascorse senza incidenti in una luminosa mattinata di settembre. Quelli di sempre, abituati al potere da tempi immemorabili, sebbene negli ultimi anni avessero visto indebolirsi molto le loro forze, si prepararono a festeggiare il trionfo con settimane di anticipo. Nei negozi non c'erano più liquori, nei mercati erano finiti i frutti di mare freschi e le pasticcerie lavoravano a doppio turno per soddisfare la richiesta di torte e di pasticcini. Nel quartiere alto non si allarmarono sentendo i risultati dei calcoli parziali nelle province che favorivano la sinistra, perché tutti sapevano che i voti della capitale erano decisivi. Il senatore Trueba seguì la votazione dalla sede del suo partito con perfetta calma e buon umore, ridendo petulante quando qualcuno dei suoi uomini si innervosiva per l'avanzata evidente del candidato dell'opposizione. In anticipo sul trionfo, aveva smesso il lutto stretto infilandosi una rosa rossa all'occhiello della giacca. Lo intervistarono alla televisione e tutto il paese poté udirlo. Vinceremo noi, quelli di sempre, disse superbamente. E poi invitò a brindare al difensore della democrazia. Nella grande casa dell'angolo, Blanca, Alba e la servitù stavano davanti al televisore bevendo tè, portavano radio a transistor per udire gli ultimi risultati. Nel quartiere alto alcuni studenti, infiammati di idealismo, fecero uno sberleffo ai genitori raccolti intorno al televisore con espressione funebre e si lanciarono pure loro in strada. Dalla periferia industriale arrivarono i lavoratori in colonne ordinate con i pugni sollevati cantando gli slogan della campagna. Si riunirono tutti nel centro gridando come un sol uomo che El pueblo unido jamás será vencido. Tirarono fuori i bianchi fazzoletti e aspettarono. A mezzanotte si venne a sapere che aveva vinto la sinistra. In un batter d'occhio i gruppi dispersi si ingrossarono, si gonfiarono, si estesero e le strade si riempirono di gente euforica che saltava, gridava, si abbracciava e rideva. Accesero torce e lo schiamazzo delle voci e i balli in strada si trasformarono in una giubilante e disciplinata mascherata che cominciò ad avanzare verso i lindi viali della borghesia e allora si vide il desueto spettacolo della gente del popolo, uomini con i loro scarponi della fabbrica, donne con i loro figli in braccio, studenti in maniche di camicia, passeggiare tranquillamente per la zona riservata ed elegante dove ben poche volte si erano avventurati e dove erano stranieri. Il clamore dei loro canti, i loro passi e la luminaria delle loro torce penetrarono dentro le case chiuse e silenziose, dove tremavano quelli che avevano finito per credere nella loro stessa campagna di terrore ed erano convinti che il volgo li avrebbe fatti a pezzi, o nel migliore dei casi spogliati dei loro beni e mandati. O nel migliore dei casi spogliati dei loro beni e mandati in Siberia. Ma la folla ruggente non forzò alcuna porta né calpestò i giardini perfetti. Passò allegramente, senza toccare i veicoli di lusso parcheggiati in strada, girò per la piazza e per i parchi dove non aveva mai messo piede. Indugiò, stupita, davanti alle vetrine dei negozi che risplendevano come a Natale e dove si offrivano oggetti che neppure sapeva che uso avevano, e continuò il suo cammino imperturbabile. Quando le colonne passarono davanti a casa sua, Alba uscì di corsa e vi si mescolò cantando a squarciagola. Il popolo festante sfilò per tutta la notte. Nelle belle case le bottiglie di champagne rimasero tappate. Le aragoste languirono sui loro vassoi d'argento e le torte si riempirono di mosche. Al mattino, Alba scorse fra la ressa che già cominciava a disperdersi l'inconfondibile figura di Miguel che andava gridando con una bandiera tra le mani. Si fece strada verso di lui, chiamandolo inutilmente perché non poteva sentirla in mezzo a quel bailamme. Quando gli si mise davanti e Miguel la vide, passò la bandiera a quello che gli stava più vicino e l'abbracciò sollevandola da terra. I due erano all'estremo delle forze mentre si baciavano, piangevano d'allegria. Te l'avevo detto che avremmo vinto con le buone, Miguel, rise Alba. Abbiamo vinto, ma adesso dobbiamo difendere questo trionfo, replicò. Il giorno dopo, quegli stessi che avevano passato la notte a lume di candela terrorizzati nelle loro case, uscirono come una valanga impazzita e presero d'assalto le banche, esigendo di riavere il denaro. Chi aveva più coraggio preferiva tenerselo sotto il materasso o mandarlo all'estero. In 24 ore il valore della proprietà calò a meno della metà e tutti i biglietti d'aereo si esaurirono nella follia di uscire dal paese prima dell'arrivo dei sovietici che avrebbero messo filo spinato alla frontiera. Il popolo che era sfilato trionfante andò a vedere la borghesia che faceva la coda e litigava alle porte delle banche e si sganasciò dal ridere. In poche ore il paese si divise in due campi inconciliabili e la divisione cominciò a estendersi in tutte le famiglie. Il senatore Trueba trascorse la notte nella sede del suo partito, trattenuto con la forza dai suoi seguaci, che erano sicuri che se usciva in strada la folla non avrebbe avuto difficoltà a riconoscerlo e l'avrebbe appeso a un lampione. Trueba era più stupito che furioso. Non riusciva a credere a quanto era successo. Nonostante fossero molti anni che andava ripetendo la solfa che il paese era pieno di marxisti, non si sentiva depresso, al contrario. Nel suo vecchio cuore di lottatore palpitava un'emozione esaltata che non sentiva più dalla giovinezza. Una cosa è vincere le elezioni, un'altra, molto diversa, è essere presidente, disse misteriosamente ai suoi piagnucolosi correligionari. L'idea di eliminare il nuovo presidente, tuttavia, non stava ancora nella mente di nessuno, perché i suoi nemici erano sicuri che l'avrebbero liquidato, seguendo la stessa via legale che gli aveva permesso di trionfare. Questo era quanto Trueba pensava. Il giorno dopo, quando fu evidente che non era il caso di temere la folla in festa, uscì dal suo rifugio e si diresse a una casa di campagna nei dintorni della città dove si tenne un pranzo segreto. Lì si riunì con altri politici, qualche militare e con i gringos inviati dal servizio segreto per tracciare il piano che doveva far cadere il nuovo governo, la destabilizzazione economica, come chiamarono il sabotaggio. Quella casa era un edificio di stile coloniale circondata da un cortile di ciottoli. All'arrivo del senatore Trueba c'erano già diverse auto parcheggiate. Lo accolsero con effusione perché era uno dei leader indiscussi della destra. E perché lui, per prevenire quello che era poi successo, aveva mantenuto i contatti necessari con mesi di anticipo. Dopo il pranzo, pesce freddo con salsa di avocado, porchetta arrosto al brandy e mousse di cioccolata, allontanarono i camerieri e sbarrarono le porte del salone. Lì tracciarono a grandi linee la loro strategia e poi, in piedi, fecero un brindisi alla patria. Tutti loro, meno gli stranieri, erano disposti ad arrischiare la metà delle loro fortune personali nell'impresa, ma solo il vecchio Trueba era disposto a dare anche la vita. Non lo lasceremo in pace nemmeno un minuto, dovrà rinunciare, disse con fermezza. E se così non funzionasse, senatore, ecco cosa abbiamo, aggiunse il generale Hurtado posando la sua arma d'ordinanza sulla tovaglia. Un colpo di Stato non ci interessa, generale, replicò nel suo corretto castigliano l'agente segreto dell'ambasciata. Vogliamo che il marxismo fallisca strepitosamente e cada da solo per togliere quest'idea dalla testa ad altri paesi del continente, capisce? È una faccenda che sistemeremo col denaro. Possiamo ancora comprare qualche parlamentare perché non lo confermino presidente. Sta nella sua costituzione, non ha avuto la maggioranza assoluta e il Parlamento deve decidere. Si tolga quest'idea dalla testa, mister, esclamò il senatore Trueba. Qui non potrà corrompere nessuno. Il Congresso e le forze armate sono incorruttibili. È meglio investire tutto il denaro per comprare tutti i mezzi di comunicazione, così saremo padroni dell'opinione pubblica, che è l'unica cosa realmente importante. È una follia. La La prima cosa che faranno i marxisti sarà quella di abolire la libertà di stampa, dissero più voci all'unisono. Credetemi, signori, replicò il senatore Trueba, io conosco questo paese, non toglieranno mai la libertà di stampa. Del resto è nel programma di governo. Ha giurato di rispettare le libertà democratiche. Lo cattureremo con la sua stessa rete. Il senatore Trueba aveva ragione. Non riuscirono a corrompere i parlamentari e nel tempo previsto dalla legge la sinistra assunse tranquillamente il potere e allora la destra cominciò ad accumulare odio. Dopo le elezioni la vita cambiò per tutti e quelli che avevano pensato di poter continuare come sempre ben presto si resero conto che era un'illusione. Per Pedro Terzo García il cambiamento fu brutale. Aveva vissuto schivando i tranelli della vita abitudinaria, libero e povero come un trovatore errante, senza mai portare scarpe di cuoio, né cravatta né orologio, permettendosi il lusso della tenerezza, del candore, dello sperpero e della siesta, perché non doveva renderne conto a chi che sia. Ogni volta faticava sempre di più a trovare l'inquietudine e il dolore necessari per comporre una nuova canzone. Perché con gli anni aveva acquistato una grande pace interiore e la ribellione che lo mobilitava in gioventù si era trasformata nella mansuetudine dell'uomo soddisfatto di se stesso. Era austero, come un francescano, non aveva alcuna ambizione di denaro e di potere, l'unica macchia nella sua tranquillità era Blanca. Aveva smesso di interessargli l'amore senza futuro delle adolescenti e aveva acquisito la certezza che Blanca era l'unica donna per lui. Contò gli anni che l'aveva amata in clandestinità e non riuscì a ricordare nemmeno un momento della sua vita in cui lei non fosse stata presente. Dopo l'elezione presidenziale vide l'equilibrio della sua esistenza sconvolto dall'urgenza di collaborare col governo. Non poté rifiutare perché, come gli spiegarono, i partiti di sinistra non avevano abbastanza uomini all'altezza di tutte le funzioni che dovevano svolgere. Sono un contadino, non ho preparazione. Cercò di scusarsi. Non importa, compagno, lei almeno è popolare, anche se commettesse errori la gente glielo perdonerebbe, gli risposero. E fu così che si ritrovò dietro una scrivania per la prima volta in vita sua, con una segretaria personale e alle spalle un grande quadro dei padri della patria durante qualche famosa battaglia. Pedro Terzo García guardava dalla finestra con sbarre del suo lussuoso ufficio e poteva vedere solo un minuscolo quadrilatero di cielo grigio. Non era una carica formale. Lavorava dalle 7 del mattino sino a notte e infine era così stanco che non se la sentiva di strappare neppure un accordo dalla sua chitarra e ancora meno di amare Blanca con la solita passione. Quando potevano darsi appuntamento, superando i soliti ostacoli di Blanca, più i nuovi che gli imponeva il suo lavoro, si ritrovavano tra le lenzuola più con angoscia che con desiderio. Facevano l'amore stanchi, interrotti dal telefono, ossessionati dal tempo che non bastava mai. Blanca smise di indossare la sua biancheria da sgualdrina perché le sembrava una provocazione inutile che li metteva in ridicolo. Alla fine si incontravano per riposare, abbracciati come una coppia di nonni, e per discutere amabilmente dei loro problemi quotidiani e dei gravi fatti che scuotevano la nazione. Un giorno Pedro Terzo si accorse che da quasi un mese non facevano l'amore e, cosa che gli parve ancor peggio, che nessuno dei due sentiva il desiderio di farlo. Ebbe un sobbalzo. Calcolò che alla sua età non c'erano cause di impotenza e attribuì la cosa alla vita che faceva e alle manie da scapolo che aveva sviluppato. Suppose che se avesse condotto una vita normale con Blanca, in cui lei l'avesse aspettato ogni giorno nella pace del focolare, le cose sarebbero state diverse. Le intimò di sposarlo una volta per tutte, perché era ormai stufo di quegli amori furtivi e non aveva più l'età per vivere così. E Blanca gli diede la stessa risposta che gli aveva già dato spesso prima. Devo pensarci, amore mio. Era nuda, seduta sull'angusto letto di Pedro Terzo. Lui la guardò senza pietà e vide che il tempo cominciava a devastarla con i suoi danni, che era più grassa, più triste, che aveva le mani deformate dai reumatismi e che quei meravigliosi seni che un tempo gli toglievano il sonno stavano trasformandosi nell'ampio grembo di una pingue matrona in piena maturità. Tuttavia la ricordava bella come durante la sua giovinezza, quando si amavano tra le canne del fiume alle Tre Marie, e proprio per questo gli dispiaceva che la stanchezza fosse più forte della passione. Ci hai pensato per quasi mezzo secolo, basta, adesso o mai più, concluse. Blanca non si turbò perché non era la prima volta che lui la spingeva a prendere una decisione. Ogni volta che rompeva con una delle sue giovani amanti e tornava da lei, le imponeva il matrimonio in una ricerca disperata di trattenere l'amore e di farsi perdonare. Quando si era trattato di lasciare il quartiere operaio, dove era stato felice per molti anni, e di sistemarsi in un appartamento di classe media, le aveva detto le stesse parole: o ti sposi con me adesso, o non ci vediamo più. Blanca non capì che in quell'occasione la decisione di Pedro III era irrevocabile. Si separarono adirati, lei si vestì raccogliendo in fretta i suoi indumenti sparsi sul pavimento e si arrotolò i capelli sulla nuca, fermandoli con qualche forcina che aveva rintracciato nel disordine del letto. Pedro III si accese una sigaretta e non le tolse lo sguardo di dosso mentre lei si vestiva. Blanca si infilò le scarpe, prese la sua borsa e dalla porta gli fece un cenno di saluto. Era sicura che il giorno dopo lui l'avrebbe chiamata per una delle sue spettacolari riconciliazioni. Pedro III si girò verso una parete. Una smorfia amara gli aveva trasformato la bocca in una linea stretta. Non si sarebbero rivisti per 2 anni. Nei giorni successivi, Blanca attese che si mettesse in comunicazione con lei, secondo uno schema che si ripeteva sempre. Mai le era mancato, nemmeno quando lei si era sposata e avevano trascorso un anno separati. Anche in quella circostanza era stato lui a cercarla, ma al terzo giorno senza notizie cominciò ad allarmarsi. Si rigirava nel letto, tormentata da un'insonnia perenne, raddoppiò la dose di tranquillanti, si rifugiò di nuovo nei suoi mal di testa e nelle sue nevralgie. Si stordì nel laboratorio mettendo e togliendo dal forno centinaia di mostri per il presepe nello sforzo di mantenersi occupata e di non pensare. Ma non riuscì a soffocare la sua impazienza. Infine gli telefonò al ministero. Una voce femminile le rispose che il compagno Garcia era in riunione e che non poteva essere interrotto. Il giorno dopo Blanca ritelefonò e continuò a farlo per il resto della settimana, finché non si convinse che non l'avrebbe raggiunto con quel mezzo. Fece uno sforzo per vincere l'enorme orgoglio che aveva ereditato da suo padre e mise il suo vestito migliore, il suo reggicalze da scanfarda e andò a cercarlo nel suo appartamento. La sua chiave non entrò nella serratura e dovette suonare il campanello. Le aprì la porta un omaccione baffuto con occhi da educanda. Il compagno Garcia non c'è, disse senza invitarla ad entrare. Allora capì di averlo perso. Ebbe la visione fugace del suo futuro. Vide se stessa in un vasto deserto a consumarsi in occupazioni senza senso per impiegare il tempo, senza l'unico uomo che aveva amato in tutta la vita e lontana da quelle braccia fra cui aveva dormito da giorni immemorabili della sua prima adolescenza. Si sedette sulla scala e ruppe in pianto. L'uomo dai baffi chiuse la porta senza rumore. Non disse a nessuno quanto era successo. Alba le chiese di Pedro III e lei rispose evasivamente dicendole che il nuovo incarico nel governo lo teneva molto occupato. Continuò a dare lezioni alle signorine scioperate e ai bambini Down e inoltre cominciò a insegnare ceramica nei quartieri periferici dove le donne si erano organizzate per imparare nuovi mestieri e partecipare per la prima volta all'attività politica e sociale del paese. L'organizzazione era necessaria perché la strada verso il socialismo si trasformò ben presto in un campo di battaglia. Mentre il popolo festeggiava la vittoria, lasciandosi crescere i capelli e la barba, chiamandosi l'un l'altro compagno o compagna, riesumando il folklore dimenticato e l'artigianato popolare ed esercitando il suo nuovo potere in eterne e inutili riunioni di lavoratori, dove tutti parlavano nello stesso tempo e non arrivavano mai ad alcun accordo, la destra compiva una serie di azioni strategiche destinate a frantumare l'economia e a togliere prestigio al governo. Aveva fra le mani i mezzi di diffusione più potenti, contava su risorse economiche quasi illimitate e sull'aiuto dei nordamericani che avevano destinato fondi segreti per il piano di sabotaggio. Di lì a pochi mesi si potevano già notare i risultati. Il popolo si ritrovò per la prima volta con denaro sufficiente per esaudire le sue necessità di base e comprare qualcosa che aveva sempre desiderato, ma non poteva farlo perché i negozi erano quasi vuoti. Era cominciata la destabilizzazione che divenne a poco un incubo collettivo. Le donne si alzavano all'alba per fare code interminabili dove potevano impossessarsi di un misero pollo, mezza dozzina di pannolini o carta igienica. Il lucido per le scarpe, gli aghi e il caffè divennero articoli di lusso che venivano regalati avvolti in carta fantasia durante i compleanni. Si scatenò l'angoscia della scarsità. Il paese era scosso da ondate di voci contraddittorie che tenevano allerta la popolazione sui prodotti che sarebbero venuti meno. E la gente comprava quello che c'era, senza misura, per assicurarsi il futuro. Si mettevano in coda senza sapere quello che si stava vendendo, solo per non perdere l'occasione di comprare qualcosa, anche se non ne avevano bisogno. Sorsero professionisti delle code che per una somma ragionevole tenevano il posto ad altri, i venditori di dolciumi che approfittavano della ressa per piazzare le loro ghiottonerie e quelli che affittavano coperte per le code notturne. E si impose il mercato nero. La polizia cercò di impedirlo, ma era come una peste che si infilava ovunque e per tanto che perquisissero le auto e fermassero chi trasportava fagotti sospetti, non riuscirono a evitarlo. Persino i bambini trafficavano nei cortili delle scuole. Nella fretta di accaparrare prodotti nasceva confusione e chi non aveva mai fumato finiva per pagare qualunque cifra per un pacchetto di sigarette e chi non aveva bambini litigava per un barattolo di cibo per lattanti. Scomparvero i pezzi di ricambio delle cucine, delle macchine industriali, dei veicoli, razionarono la benzina e le file di automobili potevano durare 2 giorni e una notte, bloccando la città come un gigantesco boa immobile che si scaldava al sole. Non c'era tempo per tante code e gli impiegati dovevano spostarsi a piedi o in bicicletta. Le strade si riempirono di ciclisti ansimanti e questo sembrava un delirio di olandesi. Così stavano le cose quando i camionisti si misero in sciopero. La seconda settimana fu chiaro che non era un fatto sindacale, bensì politico, e che non pensavano di tornare al lavoro. L'esercito volle occuparsi del problema, perché gli ortaggi stavano marcendo nei campi e nei mercati non c'era niente da vendere alle donne di casa, ma si trovò che gli autisti avevano messo fuori uso i motori. Ed era impossibile far muovere le migliaia di camion che occupavano le strade come carcasse fossilizzate. Il presidente si mostrò in televisione chiedendo pazienza, avvertì il paese che i camionisti erano pagati dall'imperialismo e che sarebbero rimasti in sciopero indefinitamente, sicché era meglio coltivare le proprie verdure nei cortili e sui balconi, almeno fin tanto che non si fosse trovata un'altra soluzione. Il popolo, che era abituato alla povertà, e che aveva mangiato pollo solo nelle feste nazionali e a Natale, non perse l'euforia del primo giorno. Al contrario, si organizzò come per una guerra, deciso a non permettere che il sabotaggio economico gli amareggiasse il trionfo. Continuò a tripudiare con spirito festoso e a cantare per le strade che El pueblo unido jamás será vencido. Sebbene il ritornello riecheggiasse sempre più stonato perché la divisione e l'odio si diffondevano inesorabilmente. Anche la vita del senatore Trueba, come quella di tutti gli altri, cambiò. L'entusiasmo per la lotta che aveva intrapreso gli restituì le forze di un tempo e alleviò un poco il dolore delle sue povere ossa. Lavorava come nei suoi tempi migliori, faceva numerosi viaggi di cospirazione all'estero e percorreva infaticabilmente le province del paese da nord a sud, in aereo, in automobile e in treno, su cui era finito il privilegio della prima classe. Reggeva le truculente cene con le quali lo accoglievano i suoi seguaci in ogni città, paese o villaggio che visitava, simulando l'appetito di un carcerato, nonostante le sue budella di anziano non fossero più fatte per questi trambusti. Viveva fra un conciliabolo e l'altro. All'inizio il lungo esercizio della democrazia lo limitava nella sua capacità di tendere insidie al governo, ma ben presto abbandonò l'idea di infastidirlo nell'ambito della legge e accettò il fatto che l'unico modo per vincerlo era impiegando risorse proibite. Fu il primo a osar dire in pubblico che per fermare l'avanzata del marxismo sarebbe stato utile soltanto un golpe militare, perché il popolo non avrebbe rinunciato al potere che aveva aspettato con ansia durante mezzo secolo, perché mancavano i polli. Smettetela con le cretinate, impugnate le armi, diceva quando udiva parlare di sabotaggio. Le sue idee non erano affatto un segreto, le diffondeva ai quattro venti e, non contento di questo, andava di tanto in tanto a tirare grano turco ai cadetti della scuola militare e a gridare contro di loro che erano delle galline. Dovette cercarsi un paio di bravacci che lo proteggessero durante i suoi stessi eccessi. Spesso dimenticava che li aveva assunti lui stesso e, sentendosi sorvegliato, soffriva di attacchi di malumore, li insultava, li minacciava col bastone e in genere finiva soffocato dalla tachicardia. Era sicuro che se qualcuno aveva intenzione di assassinarlo, quei due imbecilli grandi e grossi non sarebbero riusciti a evitarlo, ma aveva fiducia che la loro presenza potesse almeno intimorire gli insolenti spontanei. Cercò anche di far vigilare sua nipote, perché pensava che si muoveva in un antro di comunisti dove da un momento all'altro qualcuno poteva mancarle di rispetto per colpa della parentela con lui, ma Alba non volle sentir parlare della faccenda. Un bravaccio a pagamento è come una confessione di colpa. Io non ho niente da temere, aggiunse. E lui non osò insistere, perché era ormai stanco di litigare con tutti i membri della sua famiglia e, dopo tutto, sua nipote era l'unica persona al mondo con cui divideva la sua tenerezza e che lo faceva ridere.